Componimento 26esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Più di me lieta non si vede a terra, nave da l'onde combattuta e vinta. Quando la gente di pietà depinta su per la riva a ringraziar s'atterra. Né lieto più del carcer si disserra chi intorno al collo ebbe la corda vinta. Di me veggendo quella spada scinta che fece al Signor mio sí lunga guerra. E tutti voi ch'amor laudate in rima al buon testor degli amorosi detti rendete onor ch'era smarrito in prima. Che più gloria è nel regno degli eletti d'un spirito converso e più se stima che di 99 altri perfetti. Fine del componimento.